La vita è come una moneta, puoi spenderla come vuoi, ma una volta sola. L'uomo è l'unica creatura su questo pianeta che ha coscienza di esistere. Il regno animale e vegetale partecipa all'ecosistema, ma solo la creatura umana, creata dall'Eterno e fatta a somiglianza di Dio, è consapevole di ciò che lo attorna e che fa. Proprio perché l'Eterno Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza, proprio perché lo ha creato cosciente, chiede alla sua creatura di avere una vita responsabile. Molte sono le esortazioni al riguardo, ma nel libro dell'Ecclesiaste ve ne è una particolare. Leggiamola. Rallegrati pure, o giovane, nella tua giovinezza, e gioisca il tuo cuore nei giorni della tua giovinezza. Segui pure le vie del tuo cuore e la visione dei tuoi occhi, ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Elimina dal tuo cuore la tristezza e allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e l'adolescenza sono vanità. Ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni cattivi e giungano gli anni dei quali dirai: non ho in essi alcun piacere, prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle, e ritornino le nubi. Dopo la pioggia, nell'età in cui i guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici smettono di lavorare perché rimaste in poche, quelli che guardano dalle finestre si oscurano e le porte sulla strada si chiudono. Quando diminuisce il rumore della macina, uno si alza al canto di un uccello e tutte le figlie del canto si affievoliscono. Quando uno ha paura delle altezze e di spaventi per la strada, quando il mandorlo fiorisce, la locusta è un peso, il cappero non avrà più effetto, perché l'uomo va alla sua dimora eterna e i piagnoni vanno in giro per le strade. Ricordati del tuo creatore, prima che il cordone d'argento si rompa, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa alla fonte, e la ruota vada in frantumi al pozzo e la polvere ritorni alla terra, com'era prima, e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice il predicatore. Tutto è vanità. Ecclesiaste da 11, 9 a 12, 8. Questo brano non è, come alcuni pensano, una esortazione a pensare alla morte, ma a ricordarsi, con responsabilità, di Dio come creatore, prima che giunga la vecchiaia, di vivere in modo responsabile la giovinezza, perché quando sarà giunta la vecchiaia sarà troppo tardi per rimediare ad un errore fatale. L'Ecclesiaste parla della vecchiaia e delle sue difficoltà in modo poetico e allegorico. Quali sono i sintomi della vecchiaia e il loro significato? Visto che il linguaggio, come del resto ogni linguaggio poetico e allegorico, è un po' particolare, vogliamo vedere il significato delle varie espressioni riferite alla vecchiaia. 1. Bisogna ricordarsi di Dio prima che vengano i giorni cattivi e giungano gli anni dei quali dirai: non ho in essi alcun piacere. La vita è bella e va goduta. Arriva però un momento in cui le cose, che prima davano piacere, perdono il loro interesse. Quando si è giovani sembra impossibile perché generalmente si misura il futuro con l'esperienza di oggi, ma le facoltà fisiche e mentali non sono sempre all'apice. Così verranno quei giorni cattivi di sempre minor gioia e piacere. 2. Bisogna ricordarsi di Dio prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle. Il sole, la luna e le stelle sono un benessere quotidiano, illuminano ad ogni istante. E così è della vita. Ciò che era un bene ogni giorno, ciò che si riteneva normale ricevere un giorno, non diventerà più così automatico, così scontato. Vi sarà un periodo di decrescente gioia e crescente malinconia, che annunciano l'avvicinarsi della lunga notte della morte. 3. Bisogna ricordarsi di Dio prima che ritornino le nubi dopo la pioggia. È incredibile osservare i bambini quando si fanno male o ricevono una grande delusione. Piangono, strillano, ma poi, dopo pochi minuti, sorridono. Dopo il pianto viene il sorriso. Non sarà così nella vecchiaia. Ad una certa età non vi saranno più quelle energie di recupero che danno alla vita del giovane quella tipica carica giovanile, ma ad un malanno se ne aggiungerà un altro. ad una tristezza se ne aggiungerà un'altra. Malinconia aggiungerà malinconia. La caratteristica della vita del giovane è la speranza. Per quanto vadano male le cose, spera sempre. Per il giovane, dopo l'inverno, torna la primavera. Per un vecchio, dopo le nuvole, ritorna la pioggia. 4. Bisogna ricordarsi di Dio prima che i guardiani della casa tremano. In questa espressione, l'Ecclesiaste si riferisce al corpo, paragonato ad una casa. I guardiani del corpo sono le braccia e le mani, che servono ad allontanare tutto ciò che può nuocere al fisico e dare ad esso ciò che ha bisogno. Anche le braccia e le mani, quando si è vecchi, non sono più gli stessi, si indeboliscono. La gloria della forza giovanile viene meno, ed essa può essere rimpiazzata solo da una vecchiaia che ha vissuto la gioventù con responsabilità. 5. Bisogna ricordarsi di Dio prima che gli uomini forti si curvano. In questa espressione l'Ecclesiaste si riferisce alle gambe. Le gambe rappresentano le colonne di una casa, sono ciò che sostengono l'edificio, che nel nostro caso è la persona. Quando si è giovani, si fa molto affidamento sulle gambe, soprattutto per correre e andare. Ma, nella vecchiaia, esse diventano deboli, cominciano a cedere, a non dare più sicurezza, non è più possibile contare su di esse. Quando leggiamo che l'Eterno Dio non si compiace nella forza del cavallo, né prende alcun piacere nelle gambe dell'uomo, Salmo 147:10, significa che Dio non gradisce che l'uomo sia sicuro di sé, che abbia quella naturale fiducia giovanile nelle sue possibilità, ma egli si compiace in chi confida sempre, in ogni situazione, sulla misericordia e sull'intervento di Dio. 6. Bisogna ricordarsi di Dio prima che le macinatrici smettono di lavorare perché rimaste in poche. Questa immagine della vecchiaia è abbastanza evidente. Si riferisce ai denti che cominciano a cadere. Quando si è giovani, è impossibile apprezzare il dono dei denti, ma quando essi cadono, si comprende il bene che si sta perdendo. Qualcuno ha fatto notare che il termine macinatrici è al femminile, perché la macinatura era un lavoro casalingo delle donne. 7. Bisogna ricordarsi di Dio prima che quelli che guardano dalle finestre si oscurano. Questa espressione si riferisce agli occhi che, con il passare del tempo, vedono sempre meno. Dobbiamo ricordarci che, al tempo di Salomone, non esistevano gli occhiali, per cui se, come al giorno d'oggi e per un fattore naturale, la diminuzione della vista iniziava a farsi sentire dopo i 40 anni, si comprende quanto tale mancanza risultasse una grossa perdita. 8. Bisogna ricordarsi di Dio prima che le porte sulla strada si chiudono. Questa espressione si riferisce alle orecchie, che cominciano a non sentire più bene quello che è al di fuori di noi. Quando si è sordi ci si sente isolati. Ho conosciuto una persona anziana di 90 anni. Praticamente sorda, spesso lo trovavo da solo, con la testa chinata in giù. Gli parlavo, ma capivo quanto fosse difficile per lui rispondermi e parlare con me. Era triste perché era sordo, ma lo era ancora di più perché non poteva comunicare con il prossimo. Alcuni studiosi, nell'espressione «le porte sulla strada si chiudono», vedono le labbra cascanti per la mancanza dei denti. 9. Bisogna ricordarsi di Dio prima che diminuisca il rumore della macina. Interpretazione difficile. Ci è chi pensa ad un indebolimento della voce. Ci è chi pensa alla bocca che, perdendo i denti, fa meno rumore. Ma è probabile che possa essere un'espressione dell'indebolimento delle forze. Espressione che prende esempio da chi non riesce più, come prima, a far passare la macina per fare la farina. Sta scritto nel libro dei Proverbi: la gloria dei giovani è la loro forza. Non sembra, ma quando si perdono le forze, sembra di perdere veramente una parte della nostra gloria. Sembra di non essere più gli stessi. Grazie siano rese a Dio perché il proverbio continua col dire: l'onore dei vecchi è la loro canizie. Proverbi 20:29. La vecchiaia demolisce tante cose, ma aiuta a vivere meglio. 10. Bisogna ricordarsi di Dio prima che ci si alzi al canto di un uccello. Il vecchio non riesce a stare a letto a lungo, perché non riesce a dormire, la vita è strana. Quando si è giovani si vorrebbe stare a letto di più e non si può. quando si è vecchi, si potrebbe stare a letto di più. Ma non ci si riesce. Evidentemente, siamo destinati a riposarci come si deve, solo quando saremo nella cassa. E così. 11. Bisogna ricordarsi di Dio prima che tutte le figlie del canto si affievoliscono. Questa espressione si riferisce alle corde vocali, che si affievoliscono. Quando si è vecchi, la voce diventa debole e tremolante, che sberla, per coloro che hanno costruito tutta la loro esistenza sulle proprie capacità canore. Un famoso cantante in punto di morte disse: «Vita sei bella, morte fai schifo». Chi non ripone in Cristo il valore della sua vita, si troverà, alla fine della sua esistenza, con niente in mano. 12. Bisogna ricordarsi di Dio prima di avere paura delle altezze e di spaventi per la strada. Quando si è vecchi, si comincia ad avere paura di cose che, prima, non ne incutevano, come ad esempio un piccolo gradino. Si comincia a temere perfino delle cose più normali, cioè quello che potrebbe succedere camminando. Quando si è vecchi, si preferisce stare in casa, non uscire, per non affrontare i disagi che un viaggio comporta. Tutto è difficile. Per mia madre, che ha più di 80 anni, camminare sull'asfalto, dove spunti qualche radice di un albero, è già una grossa difficoltà. 13. Bisogna ricordarsi di Dio prima che il mandorlo fiorisca. Questa espressione si riferisce ai capelli, che diventano grigi e poi bianchi. I fiori del mandorlo diventano bianchissimi prima di cadere. Che sberla per chi si vanta della propria capigliatura! I capelli ci sono dati come ornamento, e anche se il colore originale viene a mancare, dobbiamo ritenere il bianco come il giusto ornamento per la vecchiaia. Le persone, specialmente le donne, desiderano nascondere la realtà della loro età, ma non possono nasconderla al loro corpo che decade comunque. 14. Bisogna ricordarsi di Dio prima che la locusta sia un peso. La locusta è simbolo di una piccola cosa. Questa espressione significa che ogni cosa diventa difficile, pesante, per un vecchio. La locusta normalmente si muove velocemente, per cui l'espressione è un'immagine efficace della passata vivacità dell'infanzia e della giovinezza. Si fanno, sì, le cose, ma con un ritmo tutto diverso. 15. Bisogna ricordarsi di Dio prima che il cappero non faccia più il suo effetto, perché l'uomo va alla sua dimora eterna. Poiché il cappero stimola l'appetito e la sessualità, questa espressione si riferisce al calo di questi desideri. Siamo tutti preparati a questo momento, tutti sappiamo che prima o poi dovremo arrivarci. Ma quando succede, nasce in noi, sempre, un conflitto con la realtà che eravamo abituati a vivere diversamente. 16. Bisogna ricordarsi di Dio prima che i piagnoni vadano in giro per le strade. È un'espressione che mette in evidenza un lato culturale del funerale. In Oriente, i morti venivano portati nei sepolcri su di un'asse, seguita da gente pagata per piangere. Un simile costume viene ricordato nei Vangeli quando Gesù risuscita una bambina. L'Ecclesiaste ci ricorda di essere responsabili davanti a Dio prima che arrivi il giorno del nostro funerale. E, a proposito di funerale, l'Ecclesiaste nelle successive espressioni poetiche si riferisce proprio alla morte. 17. Bisogna ricordarsi di Dio prima che il cordone d'argento si rompa. Il cordone era quello che teneva sulla lucerna, rompendosi, faceva cadere per terra la lampada. 18. Bisogna ricordarsi di Dio prima che il vaso d'oro si spezzi. Il vaso d'oro è simbolo del bene più prezioso, in questo caso la vita. 19. Bisogna ricordarsi di Dio prima che la brocca si rompa alla fonte. L, immagine della brocca, è quella di un pozzo dove si va ad attingere l'acqua, mediante due secchi, posti all'estremità di una corda, la quale scorre su di una carrucola. Se si rompe la brocca, non si può più attingere acqua. 20. Bisogna ricordarsi di Dio prima che la ruota vada in frantumi al pozzo. La ruota segue l'immagine del pozzo dove la corda, che tiene sulla brocca, scorre su di una carrucola. Se si rompe questa, non si può più fare nulla. 21. Bisogna ricordarsi di Dio prima che la polvere ritorni alla terra come era prima. L'immagine è facile da capire. L'uomo è stato fatto dalla polvere della terra e, come polvere, tornerà. 22. Bisogna ricordarsi di Dio prima che lo Spirito torni a Dio che lo ha dato. E una allusione al racconto della creazione. Il corpo dell'uomo si dissolve, ma lo Spirito torna a Dio. La vita non termina alla tomba. La Bibbia riconosce che il corpo si annulla, ma ricorda pure che abbiamo una parte di noi stessi che è eterna. 23. Vanità delle vanità, dice il predicatore, tutto è vanità. Dal punto di vista umano, la nostra esistenza non ha senso. Che senso ha lavorare, mettere da parte dei beni, soffrire, piangere, per poi, alla fine, morire? La morte rende vano, inutile, senza senso. Ogni sforzo e ogni fatica. Ecco allora che l'Ecclesiaste non può che concludere nel seguente modo. Ecco ciò che ho compreso. È bene e opportuno per l'uomo mangiare, bere e godere del bene di tutta la fatica che compie sotto il sole, tutti i giorni di vita che Dio gli dà, perché questa è la sua parte, 5:18, e l'inevitabile conseguenza del ragionamento umano che non tiene conto dell'esistenza di Dio. Sì, da un punto di vista umano questa sarebbe l'unica soluzione. Eppure, questa non è l'unica e l'ultima soluzione. L'Apostolo Paolo, che ha speso una vita al servizio di Gesù Cristo, scrisse agli abitanti di Corinto: «Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore». 1 Corinzi 15:58. È vero che la vita è tutto un travaglio, che, di per sé, non ha senso. Ma la nostra esistenza trova un significato e un senso solo in Dio, poiché Egli è eterno, ciò che facciamo per Lui rimane in eterno. Quindi, la conclusione più ovvia è che, prima che arrivino la vecchiaia e la morte, dobbiamo metterci in regola davanti a Dio, perché dopo la morte sarà troppo tardi. L'ordine «ricordati di Dio» non significa tanto di farci tornare in mente una cosa, quanto d'attendere alle cose divine. Occuparsi della propria anima, prima che sia troppo tardi. Troppo tardi, viviamo su questa terra, una volta sola, e siccome il tempo è infinitamente prezioso, dobbiamo trarne il maggior vantaggio possibile. La vita è infatti come una moneta, puoi spenderla come vuoi, ma una volta sola. Novembre 2003, Ellero.